solaria, sa lontanerà dai prati l'erba se ne andrà. Dal viso tuo l'amor, dall'alba quel chiaro, se da questa terra io non partirò. Dal mare l'onda si dividerà, dal sole l'oro sparirà, da me lontano tu, dal cielo muore il blu. Se da questa terra io non partirò, allora cercherò la terra che mi dia un nuovo grande amor. Dal fiume l'acqua lenta svanirà, dal tempo l'ora uscirà, da me lontano tu, dal cielo muore il blu. Se da questa terra io non partirò,